droga sapeva non guarmi. No, ho fariziato fine fine, adesso grossa grossa. E anche qua ha aumentato. Troppo troppo. Lo stai usando? Il coso, il, come si chiama? Il Pro Galaxy, quello lì, tutto. La Way con il microfono quello vintage, palmare, attaccato, collegato al mixer però. Io vabbè, 9, sì, radio 5. Sì, vabbè, sono, aspetta che metto 4 watt, neanche ci arrivo, 4 watt, massimamente usi qua, cosa è successo, da così, sto facendo così, vedi un po'. No, così è troppo alta, abbassa la panna appena. Sarà un microfono normale. Aspetta. Guarda, sto abbassando il mic gain per vedere i bassi dell'equalizzatore del mixer, così mi dai bassi, alti, medi, stretti e larghi. No, così per me va bene, ti sto ascoltando con 30, va benissimo, la grande. Bella, ascolta, siccome io ho una colonnina, guarda così cos'è successo, o cosa sta succedendo, che si fa rientro una colonnina. Allora, ti chiudo questi, cosa è successo? Guarda, 1, 2, 3, dall'equalizzatore siamo a 1 a meno 15 Hz, kHz, e adesso a metà. No, non ti piaceva di più prima, c'erano più acuti, così c'è solo bassi, mettilo come era prima. No, mi pare che era così, 1, 2, 3, no, così sta distorcendo, guarda, 1, 2, 3. Via, così, lascialo così. No, è perché sennò distorce, sì, posso aumentare, abbassare, no, guarda cosa succede così invece. E così ti sei abbassato. Ah, così mi sono, ecco, così è tutto al massimo, qui dal mixer, aspetta e provo un'altra porta, scusa qua. Via, no, per appena il mic gain devi abbassare, ma per appena, niente di che. Ok, questa è un'altra porta, sempre XLR, però senza phantom naturalmente, perché questo è un microfono palmare normale. E guarda un po', medi, medi, 1, 2, 3, medi a metà. E alti, minimo, 1, 2, 3, e massimo, 1, 2, 3. Non è male, lasciarla anche al massimo, non è male anche questa, va bene. Perché sono due porte separate, sono uguali come attacco, come collegamento, però sono una per microfono condensatore e l'altra per microfono dinamico. Adesso appunto stavo provando un'altra porta, allora, così non cambia niente, girando qua, mi sembra dalla colonnina, non cambia niente. 1, 2, 3, prova, prova, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, guarda un po' cosa è successo adesso, 1, 2, 3. Adesso ha cambiato, poco fa no, adesso ha cambiato, così va bene, non è male, però preferisco sempre l'altra. L'altra, aspetta, qual era? Allora, aspetta che sto mettendo uguale all'altra porta, allora, come ti ho lasciato l'altra porta, siccome però sono, allora, questo è così, questo è a zero, ecco, adesso è tutto, però voglio cambiare direttamente poi da una porta all'altra per vedere. Sicuramente cambia. Allora, questa è uguale. Dopo ti mando la foto di cosa usa. Ok, adesso questa al massimo dal mixer. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3. Questa è una porta. Adesso cambio porta con gli stessi, con le stesse cose, con le stesse regolazioni. Però. Questa è l'altra porta, sono poi con le stesse regolazioni. Vedi come cambia, capa? Sì. Un abisso molto più forte, anche troppo, però l'altra non è male per fare questione. Aspetta, allora, vedi come cambia, pensa che adesso il mic gain ce l'ho, sì, per fare, evitare il rientro nella colonnina. Non bene, io l'ho lasciato così. Vabbè, allora lo lascio così, gamba. Ah, per fare due chiacchiere va più che bene, intanto, se vuoi tutti i vitini, no, non c'è manuta, va bene. Era per, siccome era appunto questo microfono vintage, aspetta, la foto, l'ho mandata altra volta. Oh, mi sembra di sì, mi mandi un bel foto, sicuramente sì. Cazzo quanto capo bello. Ma non è tramandata. sono mandato un video, lo guardo, aspetta. Come mi avevi regolato. campo, dai. E quello è anche il bello di questi giocatori di Pitcher. Ce n'è un altro modello che c'ha l'eco, un sacco di funzioni anche. Il modello dopo di questo. Ma puoi attaccare anche altri microfoni con un'altra radio e un altro microfono per attaccare sempre lì. Esatto, perché come abbiamo visto, a parte quei due neri dei XLR, no? C'è anche due jack femmina da 6,5, però non hanno la stessa potenza che ti dà l'XLR, capito? Nonostante lo sto tentando, lo sto tenendo spesso perché si è diviso 40 volte a questo microfono di cinghia. Piglia a voi, piglia. No. Non hai mai provato con uno di quelli da tavolo, per dire un più 4, un più 5, a vedere se spinge? Ma il problema è il rientro, capito? Sta facendo fischiando così, immaginati con un preamplificato. Ma è bello, ripeto, perché puoi cambiarti i passi, se non ti piace il 1000 mp4, li modifichi i passi tramite appunto sempre il mixer e te li regoli come ne hai voglia, non è che diciamo, il microfono che voglia baracchino e livellato. C'ho l'MP4, perciò posso fare quella prova con l'MP4. Vabbè, ottimo per la truppa, no, un ottimo risultato. Guarda, se sto andando alla foto dei connettori che ci sono sotto quelli neri dove che sto usando adesso, sotto l'XLR, appunto, vedi ci sono gli altri due jack da 6,5. Quelli mi servono per appunto i microfoni dinamici, più che altro, capito? Mentre quello XLR sono soprattutto per quelli condensatori, che vanno alimentati appunto. L'hai comprata usata, ce l'avevi già. Il mixer? Sì. Sì, ma non ti l'avevo anche da abbassata, infatti. E la settimana scorsa? No, li trovi anche su Amazon, su eBay, li trovi usati. E dappertutto, capito? E è bello che ci colleghi quello che vuoi. Sia gli ingressi, ma anche le uscite, qua. E le colleghi, ti regoli passi, alzi, guarda, è uno spettacolo perché hai un audio di uscita, che è uno spettacolo. Io naturalmente ho visto tanti video prima di prenderlo ed è bello perché cambia anche gli audio della colonnina appunto, soprattutto se stai ascoltando qualcuno, qualche DX, qualcosa, e capito, regoli bassi e elimini completamente i frusci e tutte quelle robe lì, perché diciamo c'è una specie di DSP ed è una canonata. Bella, no, è bello anche come è fatto. Dalla figura si vede che è bello. E vabbè, io non ho passione per le dosi, poi poco posto c'ho. Avevo più posto di là che al Bonazzi qua, una stanzetta più piccola e infatti ho dovuto mettere quella base più corta rispetto all'altra che avevo. Le radio sono oltre le del quello che c'ho sotto e sopra, ce n'è anche sopra perché non c'è posto. Ci vediamo, qualcuno mai la tolgo, la metto sull'armadio, così non rischio di graffiare niente. Sempre piovendo sta lì. Se la carra di un telecollego 60 punti. ci base, che avevi attaccato, non mi ricordo che cosa, non so se il più 4 o qualche altro tipo di microfono, cazzo, ma usciva un bel bene, un bel forte. Quello 23 canali mi pare. E non c'hai più quello, l'altro là. Aspetta, vado a leggermelo. Se piove da qui alle 8 va bene, se continua così. Ma non credo che duri tanto, però almeno così non rovina niente. E infatti la cultura la innaffia e basta, non sta, perché se piove troppo poi allaga tutto e rovina tutto. Io diciamo in questo periodo sono poco attivo tra vacanze eccetera, quindi la radio la stavo accendendo poco, adesso ho provato a accendere e ho sentito la tua chiamata, ma qualche giorno fa ho acceso e non c'era nessuno, ho provato anche a chiamare sul canale 10 e non mi ha risposto nessuno, però ovviamente è periodo ancora di vacanze, quando inizia a fare brutto tempo la gente che sta più a casa magari qualche chiamata in più la sentiremo. Beh certo, avanti Luca, buonasera. Ma non c'è nel Puglia, poi c'è l'umidità, sono buoni di sudore, ci credete? E fuori c'è questa arietta, è un casino, se ne capisce niente qua. Driccia sopra, mi prendete un attimo. E tu apri le finestre come ho fatto io a casa, avevo lasciato le finestre tutte aperte di modo che un po' di aria circola. Invece io dall'altra parte c'ho un'impalcatura e quindi come piove sbatte sui piani e ti entra tutta l'acqua dentro le stanze, quindi ti tocca chiudere la finestra. Ma lo stanno facendo il palazzo, sì. Questi sono venuti, hanno fatto l'impalcatura in metà del condominio, giusto per iniziare il cantiere entro quelle date previste. Poi tutto agosto non si sono visti, capito? Adesso spero che rientrino, inizino a lavorare da settembre. Ascolta, ma è vera questa voce che si è sentita, che avevano tolto il 110%, che non c'erano più fondi? Diciamo che i fondi, io mi sono informato, ci sono per quei cantieri che hanno presentato questa certificazione entro il 30 di giugno, capito? Quindi se tu presentavi questo certificato, non mi ricordo com'è che si chiama, all'Agenzia delle Entrate, di inizio lavori, inizio cantiere, entro giugno, allora era ancora, rientravi nel 110%, ma tutto quello che è iniziato dopo è tutto bloccato, capito? Quindi da noi sono venuti, hanno messo l'impalcatura in metà dello stabile e poi ovviamente c'era il periodo di ferie e adesso vediamo se riprendono da settembre. Praticamente ciò che è già stato deliberato già va in porto, quello che non hanno deliberato te la bilingoma devo chiamare. Sì, ho capito. Sì, ho capito che così dà. Così è, ciao Claudio, buonasera. Ciao caro, ciao. È successo anche dove abitavo io prima, stessa cosa. Ho fatto una domanda supplementare e in un secondo tempo non le hanno accettate. È un casino. E così è così. Hanno deliberato tutto quello che è stato fatto entro giugno. Quindi erano presentate loro, niente da fare. I fondi sono già stanziati per quelle domande lì. Altri fondi non vi dava momentaneamente. Va bene, dai, sto facendo delle cosette. Ci aggiorniamo dopo se ci siete. Vai già. Sì, ciao Clara. Vediamo un pochettino, se ne vuole rientrare siamo qua, dai. Luca, va. Luca si è perso. A te il Michelino. Okay. Sì, da noi hanno messo anche il cartello fuori, inizio lavori, cantiere, eccetera, eccetera, per l'importo di, ma c'è questo dai primi di luglio, capito? Quindi loro come domanda sono a posto. Poi mi sa che bisogna eseguire il 30% dei lavori entro settembre. Quindi tu entro settembre per usufruire devi fare almeno il 30% dei lavori, però visto che loro hanno piazzato l'impalcatura altissima oltre il tetto, perché siccome devono rifare il tetto, quindi immagino che loro il 30% lo raggiungano smantellando il tetto e rifacendolo, capito? Forse anche di più, perché comunque è un lavoro grosso, perché noi abbiamo una copertura su 4 spioventi, quindi sono 4 parti di tetto. Loro adesso sono solo su 2 parti, quindi devono togliere tutte le tegole, ripristinare il cemento che c'è sotto, impermeabilizzarlo e poi lo devono anche coinventare e rimettere le tegole nuove. Quindi a quel punto penso che il 30% potrebbero sicuramente farcela benissimo a farlo entro settembre, insomma. Dopodiché tutto continuerà ad essere, insomma, in lavorazione. Da noi eseguiranno il cappotto termico alla facciata, il tetto nuovo, impermeabilizzato, tegole nuove, ci cambiano tutti i pluviali, le grondaie che ci sono, perché riprendono tutto in mano, tranne loro non possono eseguire il bonus facciate, perché le banche non fanno più la cessione del credito, quindi quello verrà fatto in un secondo tempo, capito? Quindi tutta la facciata ad esclusione dei terrazzini, dopodiché ci faranno il cambio dell'ascensore, lo mettono a norma, capito? E quindi siccome devono mettere a norma anche giù l'androne, perché noi abbiamo 2 gradini, quindi rifaranno anche l'androne, la pavimentazione con alcune variazioni, una parte va fatta a scivolo e poi l'ascensore nuovo ci mettono. Le lavorazioni che fanno sono quelle, quindi facciata con il cappotto termico, il tetto da impermeabilizzare, tutto quanto, anche lì con il cappotto sotto le tegole, e poi ci cambiano tutti gli infissi, mentre invece impianto del riscaldamento non ne possono toccare, perché il nostro è un impianto vecchio che non è di quelli circolari ma a colonne verticali, e ci sono talmente tante colonne che non si può fare neanche la contabilizzazione con le elettrovalvole, capito? Quindi hanno escluso anche che mettano mano all'impianto. A noi ci sta bene così comunque. Vabbè, da una parte del palazzo è sistemato. Sì, la cosa più importante è il tetto, che il nostro, ormai era almeno il 75% pieno di perdite, di tegole rotte, eccetera, quindi se ci mettono già a posto il tetto è una grande spesa. Abbiamo fatto bingo, facciata compresa, gli infissi, le porte, finestre con finestre, poi tutto il resto pian piano si farà. No, il nostro tetto è, non è a tegole ma è a terrazza, capito? È a terrazza, è catramato e poi sopra ci va la, c'è la ghiaia, capito? Per non volare il catrame. Esatto, il nostro è a quattro spioventi, due sono grandi e due spioventi laterali invece sono più piccoli, e poi tutta la parte centrale diciamo è a piano di calpestio, per cui quella parte lì non è a tegole ma è in catramatta. Praticamente quella è la parte dove c'è quella casettina del vecchio vaso d'espansione dell'impianto di riscaldamento che io utilizzo come base per l'antenna, capito? Dove ci sono anche altre antenne TV. Ho capito. Vabbè. Quindi quando fanno il tetto devi togliere l'antenna. Negativo, perché quella è fissata con praticamente le zanche sul muro verticale di quella casetta che non devono toccare, quindi non la leva, tutto al più devo scollegare il filo, capito? Dovrò scollegare il filo perché mentre lavorano magari gli può dare fastidio, lo piego bene, lo sigillo dentro un bustone e lo lascio sul tettuccio di quella casetta, capito? Poi quando loro finiscono di lavorare lo rimando giù e lo ricollego alla radio, capito? Sì, perché si usano fiamma ossidrica per il catrame e roba del genere, posso bruciare il filo. Sì, esatto, e lì dovrò seguire un po' le varie lavorazioni. Quando arrivano da quella parte mi organizzo, nel giro di una mezz'oretta penso di riuscire a fare tutto. Qua devo saldare lo spinotto, lo sfilo, tiro il filo dalla cucina verso il terrazzino, poi salgo su, tiro, piego e ho finito, in mezz'ora riesco a fare il tutto. Perché non lo tiri dall'antenna direttamente, lo tiri dall'antenna, te lo pieghi e te lo metti in un posto dove non gli dà fastidio. Posso fare anche così, ma perché l'antenna l'ho portata un po' in alto e quindi quella non la voglio toccare, capito? Quindi lascio il filo collegato senza toccare il tubo d'antenna, lo lascio lì. Tanto io penso che loro nel tetto, quando ci lavorano un mese e mezzo, massimo due mesi, finiscano tutte le varie parti, capito? Quando faranno quella parte lì che interessa il filo, lo stacco e poi quando hanno finito lo rimetto, quindi alla fine lo dovrò staccare per qualche settimana, immagino, qualcosa del genere. Ho capito, e vabbè, già non è niente di cose, già si fa in fretta a farlo, quel lavoro lì. Solo che dovresti rimanere senza radio per due mesi. E forse neanche, forse un paio di settimane, tre settimane, qualcosa del genere. Ma non dovrebbe durare più di tanto quella lavorazione, capito? Perché lì procedono veloce. Adesso io penso che quando loro arrivano, penso che inizino dall'altra parte dove hanno messo le impalcature, perché l'appartamento che ho io va dalla facciata principale a quella posteriore, quindi adesso nella parte posteriore hanno già messo l'impalcatura e poi vediamo un po' come diciamo sistemano il resto dell'impalcatura. Per adesso sono senza antenna parabolica, perché quella me l'hanno staccata, perché c'ho il terrazzino del salone dall'altra parte dove avevo messo l'antenna parabolica, io c'ho Sky, no? L'hanno dovuta attaccare perché hanno fatto il giro dell'impalcatura, del ponteggio e gli dava fastidio, quindi a quel punto l'ho scollegata, anche quella l'ho portata giù in garage e non vedo più i canali satellitari adesso nel salone, vedo solo quelli del digitale terrestre. Oppure sto guardando con l'applicazione del televisore, c'è Netflix e c'ho anche come si chiama l'altro, Amazon Prime Video, no? E quindi qualcosa mi vedo così. Avanti, break. Buonasera Claudio, ben sentito. grazie della mail, così te lo dico anche alla radio, avevo visto la tua email, sì, l'avevo già mandata io il giorno di Ferragosto che ero a casa e tra una cosa e l'altra ho detto adesso provo a mandare, però non ho avuto risposta. Adesso ho visto che mi hai mandato il link, sono entrato, ho visto e anche lì c'era la stessa identica mail e ho provato a rimandarne un'altra con la richiesta, no, che tu sai, e vediamo, penso che mi rispondano, magari anche lì l'attività nel mese di agosto penso che sia stata un po' fiacca come dalle nostre parti. Avanti Claudio. Allora, qua Radio Super 5 Santiago 9 più 10, qua arrivi benissimo, ti rilancio Gianni, vai Gianni. Santiago, vedi, prova. Allora, io l'ho sentito ieri tuo padre e oggi ho sentito a te, e dal giorno alla notte. Allora tuo padre gliel'ho detto, ci aveva un effetto camera lontananza proprio, adesso va benissimo, c'è l'effetto presenza, la radio è buona e va bene così. Se poi li vuoi mettere il processore per vedere se va meglio, proviamo col processore. No, lascia la 7, va meglio, perché così va quasi per distorsione, va meglio a 7, dai, ma è troppo forte così, andava bene meglio prima anche da Ruginito. Niente, mi stavi dicendo che ci avete un allevamento di dog de Bordeaux e sono sempre dei molossuidi, dai. Comunque a me piacciono tanto i dog de Bordeaux, ne sono innamorato, solo che sono troppo grandi da tenere in casa, sono bellissimi comunque, tutti a pieghe, belli, belli, belli come cani, e mangiano a gogo. Cosa li date da mangiare? Mi ero appena spostato, ma vi stavo seguendo. Sì, bella razza, i cuccioli di quella razza, stavo guardando, dopo le Bordeaux sono bellissimi, però poi quando cresce sono dei trattorini quei cani. Lo so, anche a me, guarda, il mio cane ha tirato per una lucertola, mi ha tirato, mi ha spaccato il moschettone, non ti dico altro, il moschettone me l'ha spaccato. Quindi immaginati, ed è un cane di media taglia il mio, ma c'ha una forza che è allucinante. Comunque per quei cani lì ci vuole il collare a strozzo e il guinzaglio corto. Ecco, così risolvi il problema, e lui ti cammina a fianco, devi segnarglielo da adesso però, perché sennò poi ti tirerà sempre. Se tu vuoi che ti cammini a fianco il cane, devi usare il collare a strozzo e il guinzaglio corto. Sì, begli animali, solo che sono anche, diciamo, hanno difficili da gestire, nel senso che c'è bisogno di spazio per avere quei cani lì, devi avere un bel cortile, ma non certo in appartamento sono l'ideale, perché il cane è grosso e quindi ha bisogno di spazio per muoversi, eccetera. Begli animali, già li conosco. Insomma, è un bell'impegno e c'è da stare sempre attenti, perché diciamo è un animale di indole, è tranquillo, però è molto protettivo, capito, nei confronti del padrone, delle cose sue, quindi lì devi sempre stare con un occhio davanti e uno dietro, capito, in caso si avvicinino altri cani o gatti, come mi hai detto, li fanno a pezzettini, se no. Vai Claudio. Allora, se vuoi un consiglio per quanto riguarda il fatto che masticano i mobili, basta che tu li metti uno di quelle ossa finte, come li facevo io, morsicava l'osso e non toccava nulla. A me non mi ha mai toccato nulla il mio cane quando era piccolo, morsicava solo le ossa che li mettevo quelle ossa finte di pelle. E poi per quanto riguarda l'allevamento, bisognerebbe fare dei box, secondo me, per quei cani, in modo che tu puoi gestire sia i maschi che le femmine, e poi farli accoppiare come li vuoi fare accoppiare tu, lo scegli tu con chi farla accoppiare, capito? Se tu li lasci liberi, succede un patatracchi. Ecco, avanti. Sì, buonasera, ho sentito Claudio, Gianni e Carlo, poi non so se ci sia qualche altro, un paio di minuti di questo ho sentito, avanti a chi tocca, vai tu Gianni, per farla girare, mi dirai. Scappa, dai. Sì, ci siamo io, Chiodo Arrugginito, Carlo. Carlo, c'era anche Luca, però non lo so se ci sia ancora. Luca, ci sei? Ce lo siamo dimenticati. Ciao Roberto, buonasera, ben sentito. Ciao Carlo, ben sentito anche a te. Vai Claudio Muros. No, ti ascolto perfettamente, la modulazione è pulita, chiara. Il livello dopo te lo guardo e ti do anche i livelli così. Dico, con che microfono sei? Con il palmare? Ciao Roberto, ben sentito. Occhio d'arrugginito. Basta verniciare il coperchio, quello non è un problema. La propria Roberto te lo fanno proprio. Cappa, il processore è inserito nella radio e noi ci dobbiamo spostare così non disturbiamo a loro. Vattene l'11, dai. No, siamo troppo vicini, se non li disturbo. Vai un po' lontani, vai canale 14, dai. 27 125, canale 14. Canale come c'è problema? Carlo, avanti. E a Gianni, sì, ho sentito che stanno andando su un'altra frequenza per fare delle prove. Sì. Stavo guardando fuori dalla finestra, qualche goccia ancora sta facendo, ma mi sa che quello che doveva fare l'ha già finito di fare. Speriamo. Anche perché poi devo portare il cane giù, almeno darmi quella mezz'oretta a portare il cane, dopo può anche piovere quanto vuole. Vabbè. Comunque quei cani lì, ce n'è un amico mio, ne aveva due, poi uno poverino, gli è morto, gli è venuto un tumore ed è morto. E ne ha ricomprato un altro perché è proprio affezionato. E questo amico mio aveva il negozio di animali, adesso non ce l'ha più perché ha trovato un posto a lavorare all'ospedale, quindi ha mollato. Però mi dispiace perché era anche vicino a casa, se mi serviva qualcosa andavo, mi dava consigli, eccetera. Beh, questi due cani rimanevano dietro la cassa. Dietro la cassa non ti facevano niente. Se tu ti azzardavi a andare dietro dove c'erano loro, guai. Lo immagino, sì, infatti glielo dicevo a Claudio che sono molto protettivi nei confronti del padrone e delle loro cose, no? La cuccia, il posto dove loro stanno sempre. E siccome sono anche grossi, poi una volta che diventano grandi, quindi il cane, insomma, se ti morsica è un molosso, quello è, fa male, capito? Hanno una bella dentatura, una bella bocca che fa male, capito? Non è un classico cagnolino. E per quelli ci vuole spazio, perché devono anche muoversi. È una bella razza, quella ho visto, sì, indubbiamente, ma da tenere così in appartamento, meglio una taglia molto più piccola, più, capito, più pratica e meno aggressiva anche, dai, anche se tutto sommato non è aggressivo, ma è solo protettivo quello, perché ci sono anche quelli molto aggressivi, eh. Io sono per cani di piccola taglia, tipo il Labrador, che va bene, oppure anche un boxer, che ce ne sono tigrati, c'è quello fulvo, sono anche quelli molto belli come animali. E, insomma, è quello, se avessi una casa indipendente che ha un cortile o un grande terrazzo, l'avrei preso anch'io uno di quei cani, perché sono una favola. Purtroppo è la gestione di quelle bestie che mangiano anche parecchio, perché quelli ti fanno due pasti al giorno, ma belli, belli tosti, quindi il sacchetto di crocchette penso che forse neanche una settimana ti fa per quei cani. Avanti già. Allora, quel mio amico mi ha detto che lui ha venduto dei cuccioli e dopo due mesi che ce l'aveva, quello che li ha comprati è ritornato e gli ha detto se li riprendeva perché non ce la faceva a gestirli. Mi ha detto, già, non sono cani per tutti, perché mangiano molto, ci vogliono soldi per allevarli, non sono cani che possono prendere tutti, oltre che sono grossi, mangiano anche molto, quindi sono cani che non tutti si possono permettere. E purtroppo l'ho dovuto riprendere il cucciolo, perché poi l'ho rivenduto, però intanto l'avevo già venduto e me lo sono dovuto riprendere, e siccome io sono di quelli che non li voglio far fare brutta fine, cari, perché magari poi chissà cosa fa, lo abbandona, lo fa, e allora gliel'ho ripreso, gliel'ho ripagato come l'aveva pagato lui e via, e praticamente poi me lo sono rivenduto, però intanto capito, quello lì non ce l'ha fatta a tenerlo, quella persona lì. E dice, non è per tutti, se sanno che non lo possono tenere, perché lo prendo? Dice, c'ha ragione. Io il mio cane, ho dovuto mettere la museruola, perché secondo chi lo va a carezzare, gli salta addosso, il mio molosso lo stesso. Beh, ieri sai cosa ha fatto? Mia figlia deve partire, quindi è venuta a salutarmi, mi stava baciando e stava andando per morderla, perché è geloso. L'ho dovuto prendere, meno male che lo Sharpie c'ha la pelle molto, diciamo, molto grossa, l'ho acchiappato per la pelle del collo, se no l'avrebbe morsicato. Lo immagino, sì, perché magari è affezionato a te e vedeva quasi un'aggressione nei tuoi confronti e lo fanno per quello, capito? Magari non c'è spesso a casa tua tua figlia perché vive fuori, quindi l'ha vista quasi come estranea. Gli animali sono così, purtroppo, già li conosco io, cani ne ho sempre avuto da quando ero piccolo, mio padre faceva il veterinario, ne procurava tutti gli anni uno diverso. Io, mi ricordo che avevo un levere inglese di quelli tigrati, la taglia più grande, bravissimo questo cane, affettuoso con i bambini, in strada tutti lo potevano toccare, solo che allora viveva a Bonorva, quindi lì non avevamo problemi di spazio, il cane era libero, stava in strada, mio padre lo portava in vigna, addirittura lo tenevo, mio padre saliva in questa stradina in macchina e lui lo lasciavo e lo raggiungeva, talmente era veloce a correre. L'unica cosa che non tollerava questo cane erano i gatti. In strada nostra non c'era più un gatto, non era rimasto più un gatto, perché se riusciva ad azzannarli li faceva a pezzi, solo quello aveva di difetto, se no come cane era bravissimo, affettuoso coi bambini, non aveva mai morsicato, mai nessuno, addirittura mia madre andava in chiesa, lui l'accompagnava, rimaneva fuori dalla chiesa, l'aspettava e la riaccompagnava a casa, perché era libero come cane, la notte rientrava a casa a dormire, però tutto il giorno lui stava in strada, capito, rientrava a mangiare, eccetera. E poi di razze ne ho avuto altre, ne ho avuto tante, eccetera, e so che ci vuole lo spazio e il cane lo devi, insomma, tenere con le dovute, insomma, cautele, anche secondo che animale è. Vai già. Sì, però mia figlia, quando è arrivata, tu dovevi vedere le feste che gli ha fatto, gli è saltata sino al collo, gli è saltata. Quindi immaginati tu se la riconosce. La riconosce come Carlo, solo che è geloso. Non mi posso baciare manco con la mia compagna, se gli do un bacino, viene a darmi la buonanotte, mi dà un bacino, perché a volte mi trattengo a guardare il televisore, dice guarda, io me ne vado a letto perché sono stanca, viene a darmi un bacino subito. Figura più estranea, capito? Il padrone sei tu del cane, hai capito? Cioè, chi si occupa tutti i giorni sei tu, quindi lui vede solo te come padrone, gli altri li conosce, li sopporta, li tollera, ma secondo dei casi può morsiccare, perché non è la prima volta che succede, ma un po' tutte le razze lo fanno quello, Il cane così è molto attaccato al padrone, affettuoso, e quindi lo protegge pure. Ho capito la metà della tua modulazione, perché qualcuno ti ha sovramodulato e non passava né uno né l'altro. E forse ero io. Ho detto, anche il cane mio fa così. Se vado a dare un bacio a mia moglie, lui non vuole perché è geloso. Cazzo. Buon Natalino, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Natali, si sente più la musica di te. Ed è basso, aspetta. C'è l'orchestra, magari tu. Sicuramente ci avrà l'amplificazione del microfono alta e quindi prende tutti i segnali, magari c'è il televisore acceso. Non è così, Natali? Il televisore è... Ma è basso di volume? No, era alto. Ehi, ma... No, basso era, cosa era? Era 80. 80. adesso le sento abbasso. Adesso lo abbasso. Cazzo, a 80. Io lo metto a 12, è già alto il mio. No, ma questo non è a volume, mi questo televisore. Capito, non ne ha, perché beh, sono quei televisori piatti e non a tani nuda di volume. Infatti mio io mi ho preso quell'affare per far alzare il volume. Quella sbarra che c'è, serio. Ma non funziona. No, no, non lo mettiamo mai, a chi sennò sta brutto. Ohia. Vabbè, comunque quel microfono che c'è amplifica un po', perché si sente bene con Scelta quando parla, tutto quanto. Prende tutto. Avanti Carlo di nuovo. E questo è un microfono speciale. Ah, lo sai cosa è? L'MB4M. Ma è camuffato, di chi si manomesso, da. Manomesso. Che io ho fatto qualcosina per amplificare di più, perché non amplificava nulla, ed è abbinata al Superstar 3009. Ti hai fatto non qualcosina, Natali, qualcosona, perché amplifica troppo. Ma vai. Va bene, comunque, a parte gli scherzi, sì, no, si sente tutto sotto il rumore il coso, l'audio del televisore, quando parla tua moglie, anche i rumori della strada si sentono. Quello va bene, quando uno vive da solo, Natali, tu va roba attorno alla casa, E allora si attacco l'MC60, è peggio, c'ho anche l'altro. Ah, il Turner più treccio. Io c'ho il Super Sai di Kikanak. E quello lì non l'ho provato, mi sto provando col 3009, sto usando questo di microfono, quello che mi sono ordinato, che mi ha ordinato tutto. È già chiaro, è bello. Se non viene a viene, non so se la fa. Eh sì. Oh, cosa ti stavo dicendo? Anche quello è bello il microfono, già. Chiaro, una bella modulazione. Capo, cosa è passata la polizia? Sì, no, che è l'ordine del giorno. Mi so farà bisè, già. Chissà cosa cazzo è successo. Qualche incidente sarà successo, mi sa, quando è bitonale, così sono o la polizia o i vigili urbani. Perché ha comprato nuovo il padre, sono andato a regolarlo, non so a fare che cosa, a mettere, aumentare la modulazione, a mettere il processore. Che cosa, già? È l'apparecchio che ha comprato ieri, Capri 2, 980. Quello funziona, ma funzionano male in AEMA qui. Quelli funzionano bene solo in onda laterale, perché non sono come il 440, capito? L'850, tutte quelle serie lì sono digitali e non funzionano bene in AM. Vanno bene nelle bande radioamatoriali, in banda laterale, capito? FM vanno bene, ma in AM non è che rendano molto. Non sono come il 140, il 430, il 440, quindi hanno le cosce più aperte, diciamo così. No, ti dirò che non stavo scendendo male, vero Carlo? No, no, andava bene come radio, andava anche troppo bene come era regolata, mi ha detto che era 7, andava benissimo, poi non so adesso che regolazione li voglia fare con Roberto, stanno provando sul 14, forse sono andati, comunque sempre sperimentando, dai, già va bene, vai Natali. Sono di ultima generazione quelli, non sono ricchi come il 440, che va bene in AM, perché non sono fatti per andare in AM, capito? Non sono fatti per andare nella TV. Per andare nella CB devi aprirli, devi togliere dei diodi, della zappa, cosa, sennò nella 27 non ci devono manco andare quegli apparecchi, capito? Beh, sente male. Ciao Antù, buonasera. E beh, Bombolino. Buonasera, mi c'è la seconda antenna, andendi Ciao Antonio, buonasera. Già andendi. Capa, idra radio attaccata a Bad Televisione. Già andendi. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, no, quella là sto usando per la TV, sto usando l'antenna piccola. Ora. Andavè. Ciao Cla, buonasera. Ciao Natali, mi sto facendo cose qua, stamattina a posto, poi sono passato sul 14 a dare due controlli a Claudio e a dirle che appunto è 9.50 in AM, non è nato per la M, 8.50 sì. 8.50 sì, ma 9.50 no, è un altro soft, un altro tipo di radio, quindi si deve adeguare per quello che mette. 8.50 è più o meno come 4.50, come 4.40 e così via, insomma. Va bene, avanti a chi tocca, io però sono in ascolto, se mai riprendo dopo sto facendo una cosa importante qua. Ah, ma l'8.50 va bene in AM, qua. L'8.50 è una bomba, ma no, c'è il processore. Mentre il 9.50 non è di